in diretta dal 33 giro del GL Como Opencast Alfa. When I was a young girl in my room all by myself, dreamed I fall in love once and love would never end. Time was passing, I thought, finally I'm hooked. Then I saw your pictures, met you on Facebook. Come on, come on, now it seems you Selavi, e siamo tornati a Opencast Alfa, la puntata numero 48 di Opencast Alfa. 48? Sì, tu pensa 1, 2, 3, 4, 48. 48. È una puntata gracchiante, avete sentito il rumore di fondo? È perché stiamo registrando direttamente dal 33 giri. Esatto. Abbiamo dei problemi perché c'è la puntina che saltella di qua e di là come se fosse una trottola. Peggio di te. Peggio. Puntata che mancava da un po', eh? Sì, perché siamo stati assenti in questo periodo, ma assenti giustificati anche siamo per via stati delle ferie che tu hai fatto. No. Mi hai lasciato qui, mi hai detto ti passo a prendere. Ti ho lasciato qua sul 33 giri. E ero qui che giravo. Va bene, comunque io intanto sono andato in ferie, per cui così. Ah, sei pure andato. Beh, certo, cos'è? Non vado. Hai capito, mi hai lasciato qui. E vabbè, ti ho detto, tu stai io qui a cercare notizie, vuoi sapere qualche notizia ho trovato? Sì. Cosa hai fatto? Aspettavo. Va bene, come al solito. Va bene, inventeremo qualcosa per riempire questa mezz'ora di Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del gruppo Linux di Como. Si chiama mezz'ora di hilarità. Sì, a volte qualcuno dice anche mezz'ora di niente. Così. Facciamo quel beep. Esatto, cioè potremmo, secondo me potremmo fare una volta registrare a microfono spento però. Più o meno il contenuto dovrebbe essere lo stesso. Esatto. Avete sentito della musichetta proveniente da Giamendo, da giamendo.com. Esatto, era Natta. Io l'avrei detto Pussycat. No, Natta, col il brano Se la vi. Quindi probabilmente è Natta. Scusami. Non è Natta come quando fai il nat su una rete? Può anche essere, scusami, perdono. Mamma mia. A proposito tremendo. Di Nat. Comunque, a proposito di Nat, tu lo sai che ogni volta che un IP viene rimappato, un gattino muore. Sì, lo immaginavo. Milioni perché... e milioni di gattini che muoiono per niente ogni ora. No, perché io li trovavo questi gattini e ci inciampavo e non mi spiegavo il perché. È colpa del Nat. Passate i PV6 e pensate ai gattini. Esattamente. Va bene. Siamo carichissimi. E chi se lo ricorda l'IPV6? Io me lo ricordo. Dimmelo. IPV6. Bravo. Grazie. Ma perché tu ti ricordi i tuoi IP a memoria? Sì. 10. Ecco, va bene. Bravo. E chiesto? Ma no, ma è una questione di abitudine. Una volta che ti abitui, per esempio, localhost. 10. No, 1. Ah, cacchio. Ti ricordi tutto sto ragazzo. Va bene, quali notizie abbiamo nell'ordine del giorno? Cosa è successo in questo periodo di assenza nostra? È successo un sacco di cose che non vi racconteremo, invece vi racconteremo tutt'altro. C'è stata una dura risposta da parte degli sviluppatori di chi gestisce kernel.org agli ultimi attacchi che sono stati sferrati al nostro server preferito dove trovare i sorgenti del kernel. C'è il sito dove... Cioè c'è qualcuno che attacca kernel.org? Sì. Gli scemi. Tu l'hai fatto, lo so. No, ho smesso. Vabbè, comunque c'è stata data una forte reazione, per cui è stato deciso di implementare un sistema a doppia autenticazione con una chiave con... hardware, però volendo anche con la chiave software, tipo quella sul cellulare, quelle cose. La chiave hardware. Chiave hardware, sì, sono state donate. Hanno una resistenza. Sì. Non va bene una resistenza. Sì. Sono state donate delle chiavette USB per la generazione dei token di sicurezza, mi sembra una decina. Purtroppo al momento non ho sotto mano internet per andare a vedere. Sì, proprio retrogrado. Vado, cosa vuoi che ti dica? Tasca ricarica. Comunque diventerai sono state cieco, donate diventerai cieco da fuori una di società di cui adesso ovviamente non ricordo nome, ma che prontamente andremo alla ricerca, no? Ma ci si può fidare di questa donazione? Sì. Non è che le chiavi sono... Chi può dirlo? Però in compenso si può utilizzare un qualsiasi generatore di chiavi software che sfrutti il protocollo, l'algoritmo conosciuto. Che è uno più uno. Abbiamo delle notizie in diretta dall'internet. Attenzione. Sì, non appena la leggo dall'internet, allora... Non leggere le virgole. Siamo un po' come... Sai come quelle trasmissioni dove c'è... Quelle preparate. Non so, hai presente TV Talk, l'hai mai visto? Sì. Ok, che c'è la tizia che sta sì. al computer e ti dice in tempo reale cosa... Esatto. La Juve sta vincendo. Esatto. Quindi e io no. sono la tizia che esatto. sta leggendo. Dovresti essere un po' più tizia, scusa. Non a tizio. Vabbè. Non so perché non sono tizio. No, un po' a tizio. Quindi... Dunque, mi dicono l'internet che si tratta di FreeOTP. Sì, la società. No. La società che è basato sul Google Authenticator, che però era proprietario. Quindi è un fork. Sì, è il protocollo che usano per la generazione delle esatto. chiavi. Sì. C'è anche un'applicazione per Firefox OS. Addirittura sì. Bicomo. No, per fare le... Ah, pensavo dovessi dire un'applicazione per fare Firefox OS. Va bene, comunque il concetto è che d'ora in avanti per poter scrivere il kernel scrivere sul repo ufficiale del kernel bisognerà avere queste chiavi extra per poter autenticarsi. Bicomo, vuoi chiave? Io vuoi chiave? Tu vuoi chiave? No. Sicuro? Sì. È nuova, è buona. No, grazie, ho le mie. È buona. No, mi ricordi di numero qua sotto. Di numero. No, va bene così. Di tu numero. Hai detto, ieri hai detto che volevi comprarne uno. Va bene. Passiamo ad altre cose che stanno succedendo in questo preciso momento. E che non vi stiamo raccontando. Ah no, scusa. Questa no, questa sì. ve la raccontiamo. Gli sviluppatori Debian sono a Portland per la DevConf 2014. Quindi attenzione, questo è uno scoop. Opencast Alpha vi sta raccontando in differita. Vi sta trasmettendo da Portland. Esatto, noi da 33G support. La DevConf. Ma perché noi ci spostiamo dove serve? No, perché noi abbiamo registrato a Portland sul 33G. Esatto. spedito a Como. Brava. E adesso a Como stiamo... lo passiamo. Giusto. Quindi raccontaci, aspetta, vai. E guarda fuori dalla finestra, dimmi cosa sta succedendo adesso. Ma allora, adesso vedo che sono andati in gita. Perché quindi durante... Non c'è nessuno. No, è vuoto, esatto. Sono usciti. Durante sì, la DevCon, uno dei giorni è dedicato ad la sfortuna sociali. È che, esatto, noi registriamo proprio esattamente in quel momento. Oggi si sono lamentati che il gruppo Linux è diventato un po' troppo mangiareccio. È colpa tua, presidente, è colpa allora tua. No, scusa. Sì, è colpa tua. Però io ho parlato anche di Bash oggi. Bravo. Pensava si trattasse di una roba per digerire. Per digerire. E quindi, ma di che cosa hanno... C'è un... qualcosa, qualche novità? Sì, ci sono delle novità. Ad esempio, una delle novità è che sono state aggiunte due nuove architetture alle numerose architetture supportate già da Debian. Una è calcolatrice. Può darsi che giri su svariate calcolatrici. Allora, una delle architetture è PPC64EL. Meno male. EL. Sì. Little Endian. Ma l'altra architettura ancora più interessante è ARM64. Capito? ARM64 che è fondamentale con l'arrivo dei prossimi server con processori ARM. Sì, nel senso, quando arriveranno. Ah, ok. No, qualche scheda è già acquistabile, sì, purché si sia disposti a pagare qualche migliaio di dollari. Per dire, qualche. Tu li hai? Qualche. Sì. Circa. Ok. E io l'ho tirati fuori adesso dal materasso, ho fatto sì, l'ordine. Sì. Cavolo. Perché più che altro che gli davano fastidio quando dormiva e sì, allora sì, tu ti togli. No, perché è passato prima uno, ma ha venduto delle chiavette con su dei generatori di chiavi. A saperlo non le prendevo tutte. Tenevo qualche migliaio di dollaro per esempio. Però 64, quando arriveranno veramente questi server con ARM che vuole puntare sul mercato dei server, noi saremo Debian pronti. Sarà pronta. Esatto. È importante essere pronti. Io speravo in un, esatto, logo nuovo, non lo so, la spirale al contrario. Un qualcosa che non fosse, cioè che fosse liberamente riutilizzabile. Esatto. Vabbè. E invece di fare un logo da uno stampino di Photoshop, per esempio. Dettagli. Altre notizie dalla DevConf, a parte il fatto che sono usciti tutti a cena, perché direi a mangiare, sono in giro. No, a quest'ora sono a colazione. Anche quello è vero. No, credo più pranzo. Vabbè, da pizza. Anzi, esatto, l'ora di pranzo è passata. Quindi c'è sono lo a merenda. Se volete rimanere in contatto con la DevConf, tutti, la maggior parte dei talk sono ripresi in video. Ci sono gli streaming online in tempo reale adesso e la maggior parte dei video verranno registrati, no, e pubblicati. Se me li perdo, che vengono registrati, pubblicati, e vi daremo l'indirizzo dove potete trovare tutti i video passati. Su www.gl-como.it troverete questo e tutti gli altri link delle cose che vi stiamo raccontando. Per esempio, un link al 33. Per esempio, sì. Per dire. Potete scaricare l'STL di un 33 giri che poi potete stampare su una stampante 3D. Caspita, eh? Che ideona. Voi che non avete niente da fare. Invece... Poi non potete pretendere di ascoltarlo, però potete... Ma se scannerizzo un 33 giri e poi faccio un programma che legge il 33 giri scannerizzato per ricostruire la forma d'onda? Si chiama CD. Perché devi, no, fare queste cose? No. È ottico. No, non si chiama, ah, non CD. Si chiama CD. No, è ottico. Secondo me può funzionare. Credo che qualcuno l'abbia fatto. Non con lo scanner. C'è un pazzo che l'aveva fatto. La notizia aveva fatto il giro di internet al tempo. Scemo. E c'era pure l'MP3 da scaricare per sentire come era venuto. Che però ti scaricavi l'immagine, era più piccola. Può essere. Comunque si sentiva abbastanza da schifo. Vabbè, perché... Però vagamente si riconosceva cosa c'era sul. E perché non è capace, dai, diciamoci. Ma no, è perché è una tecnologia nuova. Giusto, e... giusto, ancora lo i primi scanner o i 33 giri? Tutti e due, ah, okay. Esatto. Soprattutto il 33 giri. Esattamente. Va bene, io farei uno stacco musicale. Proporrei un brano che abbiamo trovato questa volta su Giamendo. Ma cambiamo completamente. Cambiamo completamente artista. No, lo dico. No, allora bisogna dare a Cesare quel che... Si chiama Cesare, no, come si chiama? Tizio. Bisogna dare a Tizio quel che è di Tizio. È nata. Questo... A Natta, quello che dico. Questa puntata stiamo passando dei brani scelti a caso. Come a caso? No, abbiamo fatto ore e ore di riunioni. Ma più che altro pezzi di artisti che non abbiamo mai passato prima. E non è stato facile. Non è stato facile perché noi siamo, diciamo, affezionati. Sì, ne abbiamo tre. Ne abbiamo tre quelli. Tuo cugino. Il prossimo, esatto, tuo cugino. Esatto. Che suonano tra l'altro nello stesso gruppo. Sì, non è facile. Per cui è, insomma, ma difficile. Ma suonano lo stesso strumento. Esatto, nello stesso gruppo, nello stesso momento. Esatto. È come quei gruppi che hanno due batterie che suonano assieme, se non proprio non sei uno che capisce, non si capisce. Però sono dei triangoli. Esatto. Suonano i triangoli, sì. Lo stesso triangolo. È per quello che non si sente, perché quando suona uno l'altro tiene fermo e viceversa. Vabbè. Va bene, questo è Other Noises. Avrei detto cavolate a stile libero. No, questo che abbiamo detto adesso sì. Invece il brano che andiamo ad ascoltare è un brano degli Other Noises. Vuoi che te lo leggo io? No, Other Noises, dal titolo My Little World. Vi ricordo, Mai più. Giamendo, come al solito, questo è Open Castaffa, il gruppo di North Como. Thank you. erano The Other Nazis con My Little World a Open Cast Alpha numero 48. Diciamo che questo pezzo è stato fotocopiato, scannerizzato e poi rigirato in vari mille pezzettini. Esatto, cioè praticamente una cagata pazzesca frullata. Dai che ti piaceva, lo so, no, hai bello. Ballato tutto il tempo, sì. Sul tavolo, no, sul posto, col palo. Ballato sulla mattonella. Sulla mattonella? Sì. Comunque bravi, no, veramente, pensavo peggio, come il primo brano, per esempio. No, ma se l'hai scelto tu. Ah, ecco. Attenzione. E quindi se lo sceglie lui, si sa che... Vogliamo dire qualcosa che succederà tra poco, diciamo, il mese di settembre? Se vi capita di essere in zona Como durante il fine settimana ultimo di settembre, il 20-21 settembre, penultimo, scusatemi, vi invitiamo a partecipare alla fiera dell'isola che c'è, la fiera dell'Equo Solidare, che si tiene a Villa Guardia. Nella villa Guardia. Noi saremo, no, nella villa di Villa Guardia. Ah, okay. Noi saremo lì presenti col nostro banchettino, pronti a dar via salami e formaggi. Il tagliere, esatto. Salami, formaggi e vino. No, se... noi prendiamo salame e formaggi dagli altri banchetti. Ah già, mi sono distratto. Ce li mangiamo e cosa facciamo... distribuiamo? E distribuiamo conoscenza. Oh, ti piace così proprio? Certo. Conoscenza. Bella questa cosa. Etti di conoscenza. Ho fatto un etto e mezzo, lascio. Ma lasci. Ecco. Quindi... La conoscenza poi si può distribuire così senza perderla. Esatto. Quindi giusto lasciare anche l'etto in più. Quindi vi ricordo 20 e 21 a Villa Guardia, ci saremo anche noi, ma vi dirò anche di più. Dopo questa fiera ci sarà il... rinomatissimo, ricercatissimo, aspettatissimo corso sulla saldatura. Il famoso corso sulla saldatura che, per chi non segue le avventure del gruppo Linus Como, è in, diciamo, nell'aria più o meno da aprile. E vabbè, allora no, vabbè. Soltanto abbiamo, no, dall'anno scorso, ah, abbiamo acquisito le schedine da saldare. Abbiamo le schedine, abbiamo i saldatori, abbiamo i saldatonni, abbiamo chi è capace. Qualcuno. Ah, qualcuno generico, vario ed eventuale. Chi è capace. Troveremo. Se vi capita di essere in zona Como ed essere capaci di saldare, ah no. Esatto, potete venire a partecipare al corso al Gele Como, previa pagamento della tessera annuale. Per... E soprattutto vi rimarrà la schedina, che in realtà è una bellissima schedina arduinosa con dei contatti e delle cose belle, e a forma di un animale che a noi ci piace un sacco: il gatto. Lo gnu, ah. No, lo gnu c'è però, e il pinguino, quindi non solo il corso ma anche il gadgets e... allora diciamo anche i tempi moderni, bravo, okay. E niente, e questo era quello che volevamo dire, questo è tutto, il resto alla prossima puntata, basta, vado in bagno io, bravo, intanto noi andiamo avanti a dire le cose serie, mi chiamate dopo? Sì, vai tranquillo. Allora, altra notizia sta per arrivare, si spera, forse, vediamo. Si dice pare, non è certo. Certo. Processore open source. Oh, esatto. E ogni tanto torna alla ribalta. Attenzione. La novità è che tra le persone che ci lavorano ci sono anche quelli che, per esempio, hanno fatto Raspberry Pi. Quindi, tipo, ah, sì? Quindi si spera che se ci sono riusciti a farne uno riesca a fare anche il secondo. Stiamo parlando del progetto che ha messo in piedi l'inventore del RISC. Esatto. Ok. Allora, è stata fondata una società. Il RISC è tutto. Ci avevano pensato. Hanno fondato una società a non fini di lucro che si chiama Low Risk. Notare che non sono andati molto lontani, piace. Che dovrebbe produrre un processore, pare, si dice, i tempi, si parla dei primi prototipi nel 2015 e i primi campioni effettivi nel 2016, e dovrebbe fare concorrenza a processori a basso consumo tipo gli ARM o simili. Ma sarà un processore, diciamo, tipo grosso come un tavolo? Beh, se lo fai a casa tu con le resistenze con i transistor. Sì, è probabile. Sì. anche due, secondo me, di tavolo. Però dico, loro faranno una cosa utilizzabile, pensi, cioè si mormora che faranno una cosa utilizzabile, o è una cosa campata in aria come quel portatile modulare che doveva uscire e non uscirà mai? Questo è di... No, questa è un'altra cosa, non c'entra niente. Allora, loro stanno praticamente sviluppando il design del processore, okay. E poi si suppone che vada in produzione. Esiste già un simulatore che gira tra l'altro sul web direttamente. È possibile fare il boot di una mini distro Linux compilata per il processore. Che caratteristiche, cos'ha di bello? Nel allora, senso... leggo direttamente dal loro sito, così la nostra signora esatto, il tizio che non attizza. E lui non ha bevuto. Guarda, c'è solo un commento da fare a sta cosa. Mi vengono allora, così. Allora, ve la siete cercata, eh? Ecco, ce la siamo cercata. Dunque, dicevamo, allora, leggo direttamente dall'internet. Allora, è comparabile a un'ARM Cortex A5, che, per chi non lo sa, è dei processori ARM più recenti, diciamo, a quello più lento ma anche più basso consumo. Una roba già vecchia. No, il Cortex A5 è uno dei più recenti. È recente? Sì, ma è stato fatto per avere consumi bassissimi. Okay. Questo dovrebbe avere metà del consumo ed essere leggermente più veloce. Comunque si parla di ben 1,7 MIPS per megahertz. Però... MIPS. Saluto. Grazie. Se qualcuno può interessare il consumo, come numero, c'è. Il consumo parlano di 0,03 microwatt per milliwatt per micro megahertz. Allora, ce la posso fare? 0,03 milliwatt per megahertz. Nel 78 ce ne sta uno, gli altri ne hanno 31 o 12. No, per dire. Siamo intorno ai 30 milliwatt per 1 GHz. Facciamo i conti. Poco. E lamentati. No. Va bene, per cui noi aspettiamo con ansia l'uscita dei primi prototipi. Per vedere un po', insomma, per diciamo magari che... non metterci mano, però per ma vedere no, come... noi siamo disponibilissimi come beta, alfa, gamma tester. Se ce li mandano. Se ce li mandano le solite 15-16 unità. Scatole, perché 12 le ho già vendute sulla baia. Esatto. Ok? E non su eBay, voleva dire, tra l'altro, le vendute proprio sulla baia. Sulla baia. Eccoci signori, pesce fresco, processori. Ma quindi lui è andato in vacanza? No, l'abbiamo mandato a vendere, non è andato io, in vacanza. Io lavoro, esatto. Anche quando sono in vacanza io lavoro. Esattamente. Quindi niente, questo è quanto. Abbiamo altre cose che sono rimaste indietro che vogliamo far sapere? Possiamo dire che è uscita una nuova release di Media Goblin. Giusto, la piattaforma per la condivisione di file multimediali, esatto. Che ambisce a diventare federata. Esatto, il che vuol dire che è possibile scambiarsi le informazioni attraverso installazioni su server diversi. Quasi un peer-to-peer. Quasi, grosso modo. L'unico problema, però, vabbè, questo è dal mio punto di vista, che vogliono usare la tecnologia che c'è dietro Pump.io, ovvero sia il software che sta facendo girare la nuova versione di Identica. Che è notoriamente una... Che culo! Esatto. C'è da dire che il grosso problema di Identica è l'interfaccia web. Io avrei detto... Sì, ma cioè... Dopo entriamo nei dettagli, non è il momento per entrare nei dettagli. Diciamo che, che comunque, logo, questa nuova che logo versione c'è in Pimpaiolo. C'è un, non lo so. Immagina che schifo. Esatto. È proprio il software c'è inutile. Tipo un cappello di velluto viola. Mamma mia. Invece glicine. Bello glicine però, Media Goblin invece ha come mascotte un goblin. Un goblin. Che è un glicine, animale che vive nel sud-est asiatico. Un goblin glicine. Un goblin color... ed è vero, quello glicine. Questa release comunque comincia a introdurre il protocollo di PumpIO, non tanto per le comunicazioni server a server quanto per l'utilizzo da client desktop, per cui è possibile caricare foto da client, fondamentalmente dai client di PumpIO, esatto, che già si usano per identità. Bene, carina invece questa cosa, potremmo utilizzarla per caricare le foto del mare, per esempio. Va bene, installalo e poi facci sapere. Invece un'altra cosa che è importante notare è che la versione 5.3 di PHP è venuta a mancare. È così, basta. Capita, cioè, l'estate, la vecchiaia, i bagordi, il caldo. Gli è stato detto passa le giornate più calde, le ore più calde, le ore più calde giornata, della giornata al supermercato. Oppure lui l'ha fatto, solo che le ore più calde era intorno ai 15 gradi. È morto al supermercato perché polmonite, faceva meno 5. Polmonite, esattamente. Ma ne sentiremo la mancanza? No, non credo. Intanto sul mio server c'è il 5.4 con Debian. Tuo server Debian, quindi nel senso, se Debian è arrivata alla 5.4, solo CentOS può essere rimasto alla 5.3. Però è uscita la versione nuova di CentOS ultimamente. Ok, con l'aggiornamento a PHP. Esatto. Debian Stable o Debian Old Stable? No, Stable, che male. Ricordiamo, no, partito il supporto per sì, sì, probabilmente c'è solo ancora PHP 4. Grosso modo. No, no, per dire. Comunque, nel caso la versione stabile di PHP mi fa sapere il nostro, come che era? Si chiamava il tizio che non ha tizia. Grazie. Il tizio che non ha tizia. Difficile che non ha tizia. Vabbè, mi fa sapere che la versione stabile è la 5.5. Quindi, giusto, ok. Notaio mi dice che è corretto. Per cui, non so, fatevi i vostri conti, soprattutto se state sviluppando qualche applicazione. Non vedo che cosa potrebbe provocarvi di danno il fatto che non funzioni più PHP. Soprattutto se state sviluppando qualche applicazione, pensate di passare a un altro linguaggio. Ma comunque tu dagli tempo, perché io ho visto i piani per la versione 7. Può peggiorare. Ho visto i piani per la versione 7 e cominciano a mettere delle cose sensate. Tipo? Ripartono da capo e riprogettano tutto il linguaggio. Ho visto una proposta che a quanto pare è stata votata passata. C'è una patch per far praticamente, invece di fare l'esecuzione istantanea del PHP, cioè al momento viene preso il PHP, viene man mano, viene, come dire, elaborato riga per riga, esatto, fondamentalmente, e viene eseguito l'operazione che viene richiesta. Invece hanno inserito il passaggio attraverso un compilatore, non proprio, un fanno precompilatore, linguaggio intermedio, adesso c'ha un nome, ALAS, saluto, una roba così. Questo linguaggio intermedio che permette di specificare l'albero delle varie informazioni che sono contenute all'interno dello script, cioè delle operazioni. Non delle vedrete più la pagina bianca. No, non c'entra un cazzo. Questo linguaggio viene poi passato al compilatore vero e proprio che lo eseguirà. È proprio una persona antipatica, eh. Tu dici delle cose non c'entra niente, ti dico che non c'entra niente. È glicine. Questa cosa comunque aiuta a sistemare diversi aspetti del linguaggio che sono alquanto bizzarri e permette di ottimizzare certe cose che al momento. Però sono piani per la versione 7. Tu dagli del tempo, che prima o poi verrà fuori. È così. No, basta, io me ne vado. Hai qualcosa da dire? Fanculo. Ma sei sempre un conte proprio, eh? Grazie. Prego, figurati, come se fossimo amici, per dire. Comunque, noi stiamo giocando ancora con Free Indica al GL Como. Sì. E è bello. Finché va. No, effettivamente funziona decisamente meglio di PumpIO. Per dire. Beh, cioè, nel senso, ci vuole poco, Ma molto meglio. Comunque veniteci a trovare, giocate con Friendica e iscrivetevi al gruppo Como, GL Como, così almeno ci avrete anche il vostro accountino sul Friendica del GL Como e potete giocare anche lì. Punto. Sì, bravo. Ho detto le mie cose. Oggi è in vena di pubblicità. Sì. Non so. Comprate anche voi. Nel caso qualcuno interessi, io ho qui da vendere. Bicchieri, posate. Va bene, abbiamo raggiunto la soglia. È arrivato l'arrotino. L'arrotino. Stiamo scivolando in questo declino dorato che è la fine della puntata, come al solito. Affilo coltelli, forbici. Al laser, gli affili. Al laser. Va bene. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, vi ricordiamo di venirci a trovare a Villa Guardia se siete in zona, vi ricordiamo che sul nostro sito www.gl-como.it trovate tutte le vecchie puntate, tutti i link, tutte le notizie e alla musica che vi abbiamo fatto ascoltare. Vi ricordiamo altresì che la musica che vi abbiamo fatto ascoltare è tutta sotto licenza Creative Commons, per cui se vi piace potete scaricarvela e farvi un bel CD, una bella compilation, un 33 giri da regalare agli amici, se volete farvi un 33 giri liberissimi, una fotocopia, per cui non so, venite, commentateci, fateci sapere cosa ne pensate e noi... se trovate delle canzoni più belle ditecelo, così almeno per dire, ecco, potrebbe essere un'idea, se volete per segnalarci esempio qualche notizia o qualche e non musica, quella di vostro cugino perché l'abbiamo sentito settimana scorsa e cioè veramente io quello che è il cugino di tutti, capisci? Capisco. Noi vi lasciamo con un ultimo brano dal titolo I Wanna Be di Quentin Hanape. Allora facciamo una cosa, lo chiamiamo Quentin che è un amico, va bene. I Wanna Be, questo è Opencast Alpha, noi vi salutiamo, saluti a tutti, ciao ciao. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the light in this strange game you play. They're precept. Oh, oh, oh, now I know who I wanna be. Life change but never stop. And to keep going, sometime you have to drop something. Life is like that, so I'm not alright. But I stay on my track because I can't go back. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Diretta dal 33.